ma senza stare oddio, agitato il cor mio, non ho riposo o pace, e quando intorno vengo e quanto ascolto mi turba e mi funesta, e tu